Ne parleremo con Giuliana Sgrena alle 8.20. Giuliana Sgrena, inviata del Manifesto. Oggi il Manifesto in prima pagina: insulti a Giuliana, Marò, che minacce. Sulle nostre pagine Facebook e Twitter arrivano insulti irripetibili contro Giuliana Sgrena, scrive il Manifesto in prima pagina. Per il tono, la fraseologia è un incitamento all'aggressione fisica. Giuliana è colpevole di aver scritto il 22 febbraio un punto di vista diverso da quello corrente sulla vicenda dei Marò. Ha scritto infatti la Sgrena: ci consideriamo i più forti e pronti a far valere l'obsoleta consuetudine dello zaino e della bandiera e considerare danno collaterale la morte di due pescatori indiani disarmati. Questa storia ci riguarda e adesso insultateci tutti, così il Manifesto. Io ho un minuto, voglio segnalare solo un articolo che mi ha incuriosito molto nel giorno in cui si parla molto di Borsellino, la mafia, eccetera. Trovate tanti dettagli, le cronache, purtroppo non c'è tempo, ma oggi c'è il verdetto definitivo in Cassazione per il senatore Marcello Dell'Utri, che rischia il carcere. E Francesco Bonazzi sul Secolo XIX, pagina 8, lancia un giallo. Vi voglio lasciare così. Noi del Secolo cerchiamo ieri il senatore per un commento, ma il suono è strano, il telefonino sembra quello di una teleselezione intercontinentale. Scatta la segreteria in spagnolo: stai a vedere che ha dimenticato il telefonino a Santo Domingo, oppure si è concesso una vacanzina all'estero proprio nel giorno in cui la Cassazione potrebbe decidere la condanna definitiva, già confermata in appello per concorso esterno in associazione mafiosa, e per questo il senatore Dell'Utri potrebbe andare in carcere? Dov'è il senatore Dell'Utri? 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8 e 21 minuti. Oggi in prima pagina del Manifesto c'è un corsivo dal titolo Marò, che minacce, insulti a Giuliana, che si conclude così: adesso insultateci tutti. È una sorta di corsivo di solidarietà per l'inviato del Manifesto Giuliana Sgrena, che saluto. Buongiorno Giuliana Sgrena e benvenuta. Buongiorno, grazie. Perché scrivono al Manifesto, riceviamo da giorni insulti, minacce per un articolo che lei ha scritto qualche giorno fa, un punto di vista diverso rispetto alla vicenda dei Marò italiani, nel quale lei ha scritto tra l'altro: noi nei confronti dell'India ci consideriamo più forti e quindi pronti a far valere l'obsoleta consuetudine dello zaino e della bandiera e considerare danno collaterale la morte di due pescatori indiani disarmati. Da cosa vogliamo partire? Dagli insulti, Sgrena? Cioè, che cosa sta succedendo in questi giorni? Ma in Italia non si può più esprimere la propria opinione perché c'è chi non tollera una diversità di opinioni. Questo mi sembra sia molto grave perché segna un ulteriore imberberimento della nostra società. Io penso che al di là delle opinioni che possono essere condivisibili o meno, comunque bisognerebbe salvaguardare il diritto all'espressione delle proprie opinioni. Sì, però insomma, magari il diritto anche alle critiche, agli insulti no, però le critiche sì. Cioè, perché alle critiche non ho nessun problema io a ricevere le critiche, il problema è che quando gli insulti diventano molto pesanti e quelli più pesanti non sono stati pubblicati e arrivano alle minacce di morte, insomma, questo diventa più... Questo non va bene, non va bene, certamente. Senta, penso che tutti dovrebbero sollevarsi contro un atteggiamento del genere. Perché lei ha criticato, diciamo, ha un po' criticato l'atteggiamento dell'Italia? L'Italia, anche col governo Monti, dice: li giudicheremo noi, vedremo se sono responsabili, ma siccome è successo in acque internazionali, ma questo è da chiarire, eccetera, riconsegnateceli, cioè c'è una violazione del diritto. Non è che c'è uno spregio verso la vita di due pescatori che sono stati uccisi? Ma intanto nessuno parla mai dei due pescatori uccisi, si parla solo della questione della giurisdizione italiana o meno, acque internazionali o meno. Allora, innanzitutto dovrebbe essere interesse anche dell'Italia dimostrare che i due Marò non sono stati loro ad uccidere i pescatori. Ma in Italia però, cioè lo faremo in un secondo tempo. Se sono nelle acque territoriali, se non fossero stati nelle acque territoriali indiane, io penso che quella nave non sarebbe mai entrata nel porto, così di solito succede. e invece la nave è entrata nel porto, quindi vuol dire... Ma lì c'è un giallo, oggi forse qualcuno dice che appunto, è stata ricattata, non farete più affari con l'India se non venite qui, vabbè, è stato un pasticcione. La giustizia non si deve fare ricattare dalle questioni commerciali, anche questa è un'anomalia. Se ci sono stati dei ricatti di questo genere, allora si denunciano questi ricatti, ma comunque adesso la nave è lì e penso che sia tutto interesse dell'Italia dimostrare che questi marò non sono responsabili dell'uccisione di questo. Questa dovrebbe essere la cosa principale, poi gli indiani si occuperanno di vedere chi sono i responsabili. Invece si continua a sollevare, ho visto anche stamattina da parte di ministri e non solo ministri, anche da parte dei militari, la questione, si dice, la prima protezione dei soldati è la bandiera e poi la legge internazionale. Allora io su questa cosa della bandiera, siccome anche ho avuto un'esperienza poco edificante per quanto riguarda la legge della bandiera, la legge non è la legge, è una consuetudine della bandiera un po' obsoleta, ottocentesca, secondo la quale i soldati rispondevano solo ai documenti che avevano nello zaino o alla bandiera che portavano e così rispondevano solo al loro paese. Ora se avvengono... Ma se venissero in Italia sarebbero processati? Cioè ci sarebbero, voglio dire, accertiamo i fatti se sono stati... appunto, ma voglio dire, se c'è una questione di accertare i fatti a me va benissimo, il problema è che adesso sono in India e quindi purtroppo bisogna accettare che anche l'India possa procedere. Cioè l'accusa che le fanno è di essere poco, non so se uso questo genere, patriottica, cioè dire... ma come, ci sono due italiani lì, nessuno li vuole rendere impuniti, però li si vuole, diciamo, tutelare dal punto di vista di un... Mi dispiace, il tono non è proprio questo. Io sono per salvare tutte le vite umane e per proteggere tutti quanti, che siano militari o no. Io mi sto spendendo in questi giorni, sto facendo un tour in Liguria per presentare insieme a due attori Il viaggio di Calipari, che cerca di fare giustizia, di mantenere viva la memoria sul caso di Calipari, perché Calipari non ha potuto avere un processo proprio perché è stata fatta valere la consuetudine della bandiera. Allora, la consuetudine della bandiera ha permesso ai responsabili del CERMIS di non essere condannati, ha permesso a Lozano, che io non ritengo neanche il principale responsabile di quello che è successo a Baghdad, di non avere un processo. Allora, è sempre così. E quindi, dice, almeno noi non facciamo la valera, almeno noi italiani facciamo vedere che non siamo come loro, lei sta dicendo. Io aspetto di vedere che l'Italia si comporti diversamente, ma dalla dichiarazione dei ministri, dei giudici della corte militare eccetera, non sembra questo l'interesse. Ma lei nei confronti di questi due marò che cosa prova? Io non ho niente contro questi due marò, ci mancherebbe. Io voglio solo che venga tenuta in considerazione anche la vita, la morte dei due pescatori indiani, perché questi non vengono, nessuno si occupa di loro, nessuno cita mai il fatto che sono morti due pescatori indiani. E perché questo? Un disprezzo rispetto alla vita altrui. Viene citato, però effettivamente non viene messa, le dice, come notizia più importante rispetto alla detenzione dei due marò. Senta, tra le varie accuse che, guardi, io le dico, arrivano anche adesso in diretta i messaggi, una è questa che viene ripetuta come un mantra da molti: la sgrena ha sulla coscienza la morte di Nicola Calipari. Quando lei sente queste cose, cosa pensa? Quando sento queste cose penso che sia malafede, perché non sono stata io a uccidere Nicola Calipari, sono stati dei militari americani che erano alleati degli italiani in Iraq e non c'era nessun motivo per sparare contro di noi, hanno sparato contro di noi senza che noi fossimo minimamente aggressivi o potessimo destare qualsiasi sospetto di essere pericolosi. E questo è un po' paradossalmente una cosa che si può riportare ai pescatori indiani. in quei casi, quando ci sono delle tensioni, no? Ci sono dei militari armati così in situazioni poco chiare, si può sparare su persone che sono assolutamente non sospette di nulla. La dinamica però è questa a Baghdad, in India invece la dinamica è chiaramente da chiarire. Senta, invece il sottosegretario Crosetto ieri ha detto: abbiamo pagato 6 milioni di euro per portare a casa la sgrena e abbiamo due marò in una prigione indiana e non facciamo nulla. Ma io non so se hanno pagato per il mio riscatto, il governo ha sempre detto che non ha pagato e non ho motivo di dubitare. Ora, io non voglio dire, nel caso dei marò, io sono perché l'Italia faccia tutto il possibile per riportarli a casa, ma che permetta anche di verificare cosa è successo. Io sono ben felice se alla fine della perizia si dimostrerà che non sono stati i marò a sparare, oppure anche se sono stati i marò a sparare, stabilito questo, che possono essere riportati in Italia e essere giudicati in Italia. Ma quello che mi dà fastidio è l'arroganza che c'è sempre da parte di uno Stato più forte rispetto al più debole, perché se si fosse trattato di uno Stato più forte come gli americani, noi non avremmo fatto valere nessuna legge, nessuna consuetudine della bandiera, anzi l'avremmo fatta valere a nostro discapito. Un'ultima cosa, lei non appenderebbe mai, cioè queste iniziative, appendiamo i poster, mettiamo le foto dei Maron, l'appenderebbe mai? Adesso facciamo, cioè c'è una differenza, allora è un conto se viene rapito, peraltro un nostro connazionale rapito in Nigeria è stato ucciso per l'intervento degli inglesi ieri, e questo magari andrebbe ricordato, ma il problema è che se una persona viene rapita mentre stava facendo il suo lavoro, ma il suo lavoro disarmato, il lavoro di civile, non di militare, allora siccome noi abbiamo missioni militari ormai ovunque, però le chiamiamo missioni di pace, anche quelli che vengono caduti sono considerati eroi. A me dispiace per la morte di questi militari, ma se fossimo più corretti e chiamassimo missione di guerra quelle che facciamo in giro per il mondo, forse anche questi militari sarebbero più consapevoli del rischio che corrono, così come corrono rischio i marò che ormai vanno a scortare tutte le navi italiane in giro per il mondo. Può capitare, dice, se uno fa quel lavoro può capitare. Può capitare, ma deve essere consapevole, deve tenerlo in conto. Invece c'è molta ambiguità su questo, anche su chi decide il pericolo che corrono i passeggeri di una nave quando si presenta un caso come quello dei pescatori indiani, perché non è chiaro questo, non è stato mai stabilito. Non è stato chiarita neanche la dinamica. Io intanto la ringrazio, mi devo fermare. Grazie a Giuliana Sgrena, inviato del Manifesto, che insomma anche qui c'è un profluvio di messaggi, chi critica, chi... Il Manifesto scrive gli insulti, no, e adesso insultateci tutti oggi in prima pagina. Mentre noi parliamo della politica che scrive, ha scritto ieri su Repubblica Filippo Ceccarelli, in una voce dal sen fuggito, il ministro Riccardi ha detto: questa politica mi fa schifo, è successo un putiferio. 24 mattino. Allora la politica torna prepotentemente alla ribalta sui giornali, sulle prime pagine, perché due giorni fa al vertice che doveva esserci Alfano, Bersani e Casini dal premier Monti salta, perché Alfano, segretario del PDL, dice: non andiamo certo a parlare di Rai e giustizia. E in serata il ministro Riccardi, in una conversazione con alcuni colleghi, ma c'erano vicino dei giornalisti, sti malandrini, dice: questa è la classica politica che mi ha schifato, insomma la politica che mi fa schifo. Apriti cielo, 46 senatori chiedono che Riccardi lasci la politica se tanto gli fa schifo. Primo firmatario di una lettera che chiede questo è il senatore Francesco Nitto Palma, ex ministro anche della giustizia. Buongiorno senatore Palma. Buongiorno. Saluto anche l'onorevole Pina Picerno. Buongiorno onorevole Picerno. Buongiorno a voi. Ovviamente senatore Palma, ovviamente del Popolo della Libertà, l'onorevole Picerno del Partito Democratico. Senatore, intanto le faccio una provocazione che però molti ascoltatori dicono, molti dicono: Riccardi ha dato sfogo a quello che molti cittadini pensano, cioè una politica che un po' ha schifato anche gli italiani. Lei che ne pensa? Voglio dire, può essere, però quello che penso io è che mentre ai cittadini è consentita la generalizzazione, a una persona che ha le responsabilità di governo, che ha il ministro Riccardi, io credo che sia necessaria una forma di controllo. Per cui una generalizzazione del genere, di quella del ministro Riccardi, la politica mi fa schifo, ha indubitabilmente un sapore di maggiore gravità rispetto a quello che lei afferma essere un comune sentire. Quindi secondo lei Riccardi si dovrebbe, secondo lei, secondo i senatori che hanno firmato, si dovrebbe dimettere, o non bastano le scuse, il ministro Riccardi ha chiesto scusa, o dovrebbe proprio lasciare? Ma guardi, io credo una cosa diversa. Noi abbiamo rappresentato una certa amarezza ai nostri capogruppi, abbiamo lasciato loro liberi di assumere le iniziative che meglio ritengono di dover assumere. Per quello che mi riguarda, io sono rimasto molto amareggiato di questa frase. Noi abbiamo sostenuto con grande lealtà il governo Monti e lo continuiamo a sostenere. Senza grandi polemiche abbiamo cercato di migliorare, ove possibile, i provvedimenti del governo. Ricordo a tutti che sono quasi tutti decreti legge con voto di fiducia. Lavoriamo in Parlamento e sentirci dire la politica fa schifo, consenta, non è una cosa che fa piacere. A ciò aggiungo che il governo si regge sui voti della politica, di quella politica che fa schifo. Allora dico che nel rapporto corretto tra le istituzioni frasi di questo genere non giovano. La nostra non è un'iniziativa contro il governo Monti, che appoggiamo e sosteniamo con lealtà, è una stigmatizzazione seria di una frase che noi riteniamo essere molto grave. Tutto qui. Onorevole Picerno, su questo, poi c'è il motivo per cui si può discutere, per cui è saltato, diciamo, questo vertice, cioè le accuse da parte del Popolo della Libertà. Io la traduco così, a dire: ma come, il governo Monti deve fare, è stato chiamato per fare delle cose ben precise, cioè portarci fuori dalle sacche della crisi, e adesso invece si vuol parlare di Rai, giustizia, temi che sono meramente politici, non di un governo tecnico. Ma partiamo prima dal fatto in sé, onorevole Picerno, è grave che un ministro dica questo è un modo di far politica che mi fa schifo? Guardi, intanto proverei a ricostruire la verità, diciamo un po' mistificata da Palma. Riccardi ha detto certa politica, sì. Riferendosi, diciamo così, all'atteggiamento di Alfano, cioè l'atteggiamento di chi pensa di poter porre veti e ricatti all'azione del governo, mi fa schifo. Allora io penso che queste parole siano assolutamente sacrosante, io le ripeto dalla prima all'ultima: se si deve dimettere Riccardi, allora si devono dimettere il 99% degli italiani che pensano esattamente la stessa cosa. Beh, però non sono ministri, io non sono ministro, per esempio. Il senatore Palma dice lui è un ministro. Che pensa esattamente la stessa cosa, cioè, e non da ora. Da molto tempo mi fa schifo la politica che pensa di poter porre veti, che in questi giorni, in queste ore è incarnato dall'atteggiamento ridicolo del segretario del PDL Alfano, o dalle parole ridicole di Cicchitto, che ribadiscono che un governo dovrebbe occuparsi solo di materie, diciamo così, economiche, come se la lotta alla corruzione non fosse materia economica. Palma lo sa bene, si parla ogni anno di 60 miliardi di euro, di questo parliamo quando parliamo di soldi bruciati in corruzione, quando parliamo di Rai parliamo di un'azienda fondamentale per il paese, insomma tutto è economia, e in ogni caso è inaccettabile porre dei veti assurdi, incredibili all'azione del governo. Quindi io credo che le parole del ministro Riccardi siano delle parole, ripeto e confermo, sacrosante, che condivido in pieno e che condividono il 99,9 periodico degli italiani. Vabbè, adesso questo è un sondaggio dell'onorevole Picerno. Su questo, senatore Palma, e c'è differenza se l'onorevole Picerno da parlamentare dice certa politica fatta dal segretario Alfano mi fa schifo, e se lo dice un ministro del governo? Ma guardi, io intanto vorrei dire una prima cosa, vorrei pregare l'onorevole Picerno di evitare di dire che io mistifico la realtà, o che sono ridicole le affermazioni di Tizio Di Caio. Io sono disponibile a un confronto sereno, moderato, senza, diciamo, termini così tranchant. L'onorevole Picerno può dire quello che vuole nel suo ruolo di parlamentare, non comprendo la ragione per cui, se tanto gli fa schifo, ritieni di dover stare in politica. Ma il problema non è questo. La frase diciamo, del ministro Riccardi riguardava uno snodo di un momento politico importante, e cioè il fatto che un meeting programmato era saltato. E perché era saltato? Perché nel pomeriggio vi era stato un pre-meeting. Era una scelta politica fatta dal segretario politico del partito di maggioranza, del più grosso partito presente in Parlamento. Allora, mi permetto di dire che il ministro di un governo sostenuto da quel partito, sì, dovrebbe avere una maggiore moderazione. Se loro si trincerano dietro il fatto di essere un governo tecnico, dovrebbero esimersi da valutazioni squisitamente politiche, anche gravi, come quella del ministro Riccardi, che riguardano un pezzo della maggioranza che li sostiene. Detto che, tra l'altro, questa è stata una conversazione, bisogna dire, origliata, o comunque avvenuta, era una conversazione tra il ministro Riccardi e il ministro Balduzzi e Severino, però c'erano dei giornalisti lì a fianco, e quindi è successo il putiferio. Ripartiamo dopo le informazioni sul traffico, per capire anche, perché all'interno del partito del Popolo della Libertà oggi c'è un'interessante intervista, per esempio, all'onorevole Napoli sul Messaggero, che definisce un'iniziativa assolutamente controproducente e sbagliata quella vostra, senatore, quindi all'interno dello stesso partito. E quindi il tema è questo: non è che i partiti, siccome contano, sembra che contino sempre meno e sembra che abbiano sempre meno credito da parte della gente, si stanno un po' innervosendo, perché questo Monti ai cittadini piace. Allora, una certa politica che ha schifato, questo ha detto il ministro Riccardi, e 46 senatori del Popolo della Libertà ne chiedono, insomma, che dicono non è compatibile il suo ruolo istituzionale con una frase del genere. 800 24 00 24, sentirei Fulvio da Milano che ci ha chiamato. Fulvio, buongiorno. Buongiorno. Lei che pensa? Mi sente? Sì, benissimo. Buongiorno. Senta, premetto che non ho particolari simpatie per la classe politica e sono un elettore disorientato in questo momento, però credo di avere autonomia e indipendenza di giudizio sufficiente per notare una situazione paradossale in questo momento, cioè il fatto di voler parlare di Rai di giustizia da parte di questo governo, sostenuto dai politici di tutti gli schieramenti, vabbè, con l'eccezione della Lega, dopo aver visto Berlusconi, che è stato martirizzato per anni perché si diceva che era ossessionato dalla giustizia e quindi metteva, sì, sempre al primo punto dell'agenda la giustizia e il controllo dell'informazione, è quantomeno paradossale. Quindi secondo lei è paradossale che il governo Monti si possa occupare di... Assolutamente. Ma qui c'è anche un CDA da rinnovare tra poco, e sappiamo che la RAI è molto legata alla politica, c'è un tema sul cambiare la governance della RAI, sono effettivamente temi anche che riguardano l'economia del paese, però lei dice non sono temi da trattare da parte del governo Monti. Non mi paiono priorità essenziali in questo momento, al di là del discorso del rinnovo del CDA, che è d'accordo, è doveroso, però insomma ci sono altre cose più importanti di cui parlare. Grazie Fulvio, vorrei andare a Bergamo da Oreste, buongiorno. Sì, salve. Io mi domandavo se non se ne occupa questo governo di Rai e di giustizia, chi dovrebbe occuparsene, Berlusconi o la sinistra? Hanno dimostrato in tanti anni di non essere capaci di farlo nella maniera giusta, vediamo se questi riescono a farlo. Altra cosa, Palma si offende, ma io credo che questa politica faccia schifo a tanti italiani, non soltanto al ministro Riccardi. Grazie Oreste. Onorevole Picerno, senta, è il segno del anche questo non so, nervosismo da parte di, o comunque questa reazione da parte di 46 senatori, del fatto della debolezza dei partiti o di alcuni partiti, o del fatto che Monti sembra avere il gradimento, adesso io non ho sondaggi, non mi interessa, però sembra avere, sentendo il polso della situazione, il gradimento degli italiani, per cui i partiti dicono uè, attenzione, qua non è che nel 2013 poi ci fanno lo scherzo e ci si prosegue su questa linea? No, io penso che il PDL sia completamente allo sbando, insomma lo vediamo in ogni manifestazione, diciamo, in ogni cosa che fanno. Questa è soltanto l'ultima, ancora prima, ripeto, c'è stato questo fatto gravissimo di Alfano che fa saltare un vertice importante motivandolo con ragioni pazzesche, insomma, ripeto, il veto sul fatto che il governo non possa occuparsi di Rai e giustizia è una cosa che fa ridere, posto che noi ogni giorno apriamo i giornali e leggiamo di fatti di corruzione gravissima, mi riferisco a quanto sta accadendo in Lombardia, a quanto sta accadendo nei partiti con la vicenda Lusi e non solo, cioè insomma la lotta alla corruzione è un tema non più rinviabile in questo paese, tanto più che, ripeto, stiamo parlando di una cifra enorme, stiamo parlando di 60 miliardi di euro che devono essere restituiti agli italiani, utilizzati dagli italiani, e quindi non è più rinviabile questa cosa. E mi fa specie che un ex ministro della giustizia non ritenga, come dire, prioritario, prioritari questi temi. No, ma infatti su questo anticipato... anticipato su questo una domanda che vorrei fare al senatore Palma, che è stato appunto ministro della giustizia anche fino a poco fa. Cioè, uno dei motivi per cui il segretario Alfano ha detto non si può parlare perché non si parla di Rai, e cosa ha fatto? Vado a parlare di giustizia. Lei, che è stato ministro della giustizia, come anche Alfano è stato ministro della giustizia, è un tema centrale o no, senatore Palma, di cui si può parlare, di cui può parlare Monti? Guardi, io, se lei mi consente, però vorrei prima fare una premessa. All'ascoltatore di Bergamo voglio assicurare che io non mi offendo. I cittadini hanno il diritto di fare tutte le critiche di questo mondo, per cui se il cittadino di Bergamo dice che la politica gli fa schifo, è un'affermazione che io devo valutare, ma non mi offende. E quanto all'intervista dell'onorevole Napoli, io ne prendo atto di una valutazione negativa dell'onorevole Napoli, ma mi si permetta di dire che, pur essendo nato in Piemonte, l'onorevole Napoli non mi pare che abbia raggiunto il rango di Camillo Benso, conte di Cavour. Quanto alla questione della giustizia, qual è il problema di fondo? Andare a modificare a colpi di emendamenti un comparto così complicato come i reati che riguardano la pubblica amministrazione è un'operazione estremamente complicata. Quando io ero ministro della giustizia avevo pregato la Camera dei Deputati in commissione, che era oggettivamente la sede dove si discuteva questa vicenda, di fare una legge delega al governo, sì, da poter consentire al governo in maniera meditata, sì, all'interno dei paletti disegnati dal Parlamento, di fare una riforma complessiva ma sistematica. Ritengo personalmente, da ex magistrato e da ex ministro della giustizia, che una riforma a colpi di emendamenti è una riforma che non va bene. Ma il fatto, c'è il principio, cioè che si possa discutere di giustizia, perché Alfano l'ha messo come dire: non vado lì a discutere di giustizia con me. Mi consenta, però, guardi che le cose non stanno esattamente in questi termini, perché della riforma della giustizia, della possibilità di affrontare la riforma della giustizia con questo governo, se n'era parlato nel passato e noi eravamo d'accordo. Io credo personalmente che quello che abbia fatto saltare quel tavolo quel giorno, sì, è stato un pre-meeting avvenuto nel pomeriggio tra il ministro della giustizia, l'onorevole Casini e l'onorevole Bersani. Ah, cioè il ministro Severino si è incontrato con Bersani e Casini e questo ha fatto saltare tutto. Io credo, non ho parlato con Alfano di questo, ma penso che sia stato questo. Ah, è questo. Senta, è un flash però che mi deve dare la Palma, perché devo concludere. Secondo lei, personalmente, è vero, avete affidato al capogruppo, ma secondo lei Riccardi deve dimettersi? Dovrebbe andarsene? Ma questa, guardi, è una valutazione che farà Riccardi ed è una valutazione che faranno i nostri capogruppo. Ma insomma, mi scusi, no, per lei, però per lei, secondo lei ha fatto quello che riguarda me. Se io stessi al posto di Riccardi mi dimetterei, ma io le faccio una domanda a lei, mi scusi, sì, tanto. Se io dicessi che tutti i giornalisti della radio fanno schifo, lei si sentirebbe... Ma lui ha detto è un certo modo di fare politica. Comunque, è un certo modo di fare politica, perché era chiaro il riferimento al segretario Alfano, politico. Certo, ad Alfano, sì, sì, sì, chiaro, si riferiva ad Alfano. Del PDL, è chiaro. E quel certo modo di fare politica è quel certo modo di fare politica di cui si accusa il PDL. E che lei vuole difendere? Io non voglio difendere nessuno, io voglio difendere me stesso. No, ma va bene, è stato molto chiaro. Ringrazio il senatore Francesco Nitto Palma del Popolo della Libertà e l'onorevole Pina Picerno del Partito Democratico. È venerdì e dunque ci ritroviamo lunedì mattina.